sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Tangenti all'ASL, 9 arresti a Napoli, solo 2 giorni fa l'allarme della Corte dei Conti sulla corruzione. PIL a meno 0,9% nel 2008, nel terzo trimestre dell'anno il calo più forte mai registrato. Berlusconi, siamo preoccupati. 8 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali, se li divideranno Stato e Regioni, mentre la CGIL è scesa in piazza a chiedere e fare di più. Un aereo si schianta sulle case nello stato del New Jersey, negli Stati Uniti. Tutti morti a bordo, una vittima a terra, tra loro una vedova dell'11 settembre. In giardino con la nonna a giocare con il cane di famiglia, un bimbo è morto così, aggredito da un mastino napoletano. Un uomo, una bandiera, Bologna dice addio a Bulgarelli. Gerex Alarge, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, ancora a Napoli, dopo il caso Romeo, la bufera sul comune, la giunta Iervolino, dopo l'allarme di soli 2 giorni fa della Corte dei Conti sulla corruzione, siamo di nuovo a raccontare una storia di tangenti. Una storia che arriva ancora dalla città partenopea e che coinvolge questa volta l'ASL. In manette sono finiti dirigenti e imprenditori, sentite. Il loro intento se lo confidano chiaro e tondo. Ci dobbiamo mangiare Napoli, si dicono al telefono 2 funzionari dell'ASL numero 1, la più grande d'Italia. Un pasto ricco che, secondo l'accusa, gli indagati volevano consumare a bocconi di tangenti sugli appalti per i lavori nei principali ospedali. Per questo 9 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza partenopea, 5 in carcere, 4 ai domiciliari. Ed è stato praticamente azzerato l'ufficio tecnico centrale dell'ASL, diretto dall'ingegner Claudio Ragosta, sulla manutenzione delle strutture, dei sistemi fognari e di riscaldamento, come pure nella fornitura degli estintori per il pronto soccorso. Gli appalti, stimati in 5 milioni di euro, venivano gonfiati del 20-25%, una tariffa che gli indagati, secondo gli inquirenti, imponevano esplicitamente alle ditte poi favorite. Tenetevi sul 25% in più, ammonivano durante la preparazione delle offerte d'appalto. 25% e non di più, altrimenti, riflettevano, avremmo problemi ad affidarvi l'appalto. Un appalto che il più delle volte veniva veicolato attraverso le più controllabili ma inesistenti, dice l'accusa, procedure d'urgenza, e senza neanche camuffarle. Ed è questa la notevole spavalderia e attitudine al crimine di cui parla il GIP nelle 400 pagine della sua ordinanza. Una spavalderia concretizzata, secondo l'accusa, anche nell'acquisto in leasing di una barca da 400 milioni da parte dell'ex direttore pro tempore dell'ufficio, ma pagata a rate da una delle società favorite. Tra quelle citate nell'inchiesta, che prende in esame appalti del 2007-2008, la TNT, la Fair Control e la BIA Bio in Arc. Raffaella Calandra, GR24, il sole 24 ore. E nel torinese a Pinerolo, in manette invece, è finito un magistrato. Affidava consulenze a un gruppo di professionisti fidati, medici e commercialisti, senza notizia di reato. Da questa insolita condotta tenuta dall'ex procuratore capo di Pinerolo, Giuseppe Marabotto, alcuni mesi fa era partita un'indagine delle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Milano. Nell'ambito dell'inchiesta, questa mattina l'ex procuratore è stato arrestato. Insieme al suo, da Milano sono stati emessi ordini di custodia cautelare per il chirurgo Dario Vizzotto e i commercialisti torinesi Mario Emanuele Florio e Ruggero Ragazzoni, quest'ultimo membro del collegio sindacale di diverse società di rilievo. Per tutti e tre le accuse sono associazione per delinquere e corruzione. Nei mesi scorsi, quando era trapelato dell'indagine, Marabotto si era giustificato dicendo che i controlli contabili e fiscali compiuti senza notizia di reato consentivano di recuperare ingenti somme spettanti all'erario. Altrettanto ingenti però le consulenze assegnate ai professionisti di fiducia, visto che si parla di un giro da oltre 10 milioni di euro. Marco Ferrando, GR24, il sole 24 ore, Torino. Dopo la cronaca, veniamo ora alle notizie economiche, che anche oggi sono molte. Dati che ancora confermano la crisi, l'ultimo in ordine di tempo, diffuso questa mattina, il prodotto interno lordo dell'ultimo trimestre del 2008. L'Italia ha chiuso l'anno con un calo dello 0,9%, ma il calo dell'ultimo trimestre è stato del 2,6% rispetto al 2007, il calo maggiore dal 1980, cioè dall'inizio delle serie storiche dell'Istituto di Statistica, che siano comparabili. E poi c'è anche il mercato dell'auto. Questa volta in tutta Europa il 2009 è iniziato male. A gennaio, secondo i dati dell'ACEA, le immatricolazioni di auto nuove nel vecchio continente sono calate del 27% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Un mercato così depresso non si registrava da 20 anni. Per quanto riguarda il mercato italiano, sempre secondo i dati europei, va giù del 32,6%. E questa sera proveranno a correre ai ripari i capi di Stato e di Governo del G7. Si riuniranno a Roma, un vertice col quale si apre la presidenza italiana per questo difficile 2009 del G7. Però in tutto questo quadro una buona notizia c'è. Sì, perché ieri sera nella notte è arrivato l'accordo sugli ammortizzatori sociali, accordo tra Governo e Regioni. Ci sono le cifre, accordo dunque firmato. Andiamo a Palazzo Chigi dove c'è Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, il Premier ha parlato appunto in una conferenza stampa che era stata convocata stamattina per appunto spiegare i dettagli di questo accordo sugli ammortizzatori sociali, ma nell'occasione si è anche detto preoccupato per l'andamento della crisi dell'economia, una crisi che ha dimensioni che non sono ancora del tutto definite, ha detto il Premier, ma sentiamo le sue parole. Do atto del grande senso di responsabilità alle regioni per la responsabilità che hanno mostrato a misurarsi insieme con noi nel tentativo di avviare a soluzione i problemi dell'occupazione che sono stati generati da questa crisi che ha delle dimensioni che non sono ancora del tutto definite ma a cui dobbiamo guardare e guardiamo con preoccupazione. Ecco, il Premier preoccupato, l'accordo invece raggiunto stanotte sugli ammortizzatori sociali, lo ricordiamo, prevede risorse per 8 miliardi di euro da destinare ai lavoratori che dovessero essere colpiti dalla crisi dell'economia e che appartengono a quelle categorie che sono al momento prive di tutele sociali come ad esempio la cassa integrazione. A queste risorse le regioni in base all'accordo contribuiranno con 2,6 miliardi di euro mentre il resto arriverà dal bilancio statale. Soddisfazione per l'intesa raggiunta nella notte è stata espressa sempre in conferenza stampa anche dal ministro del welfare Sacconi, sentiamolo. Non è la riforma degli ammortizzatori sociali, però è per certi aspetti anche qualcosa di più perché è immediata, è immediatamente operativa, è mirata, costruita su questo ruolo importante delle regioni dialoganti con le parti sociali del territorio. Penso soprattutto una soluzione tempestivamente efficace. Ecco, Palazzo Chigi, stamattina in corso il Consiglio dei Ministri, per ora è tutto, linea allo studio. Grazie ad Andrea Viali, ci risentiremo se ci saranno altre novità. Come sentivamo, il costo degli ammortizzatori sociali se lo divideranno Stato e Regioni. Paolo Piacenza ha sentito il Presidente della Regione Emilia Romagna, che è Presidente della Conferenza Stato-Regioni, Vasco Errani, per chiedergli cosa succederà adesso. In primo luogo adesso dobbiamo definire l'accordo quadro con la verifica delle cifre, perché i 2 miliardi e 6 che devono mettere le regioni è un obiettivo che va verificato rispetto alle reali disponibilità del Fondo Sociale Europeo. La seconda cosa che bisogna fare rapidissimamente, perché siamo già in ritardo, bisogna andare a fare una verifica immediata con la Commissione Europea, onde evitare che siano problemi nella rendicontazione del Fondo Sociale Europeo. Dopodiché si parte. E si deve partire al più presto perché il problema di questi lavoratori non c'è domani, c'era ieri, c'è già da ieri e dall'altro ieri. Quanto intacca le risorse per la formazione questo accordo? Non è che intacca le risorse della formazione, è meglio ed è più corretto e giusto dire, come noi abbiamo sempre detto, si indirizza una parte delle risorse della formazione sulla occupabilità e sulla adattabilità, che sono misure del Fondo Sociale Europeo che sono previste nella formazione. Da questo punto di vista ho più volte contrastato una rappresentazione di diversi ministri secondo la quale la formazione è inutile. È un gravissimo errore perché occorre lavorare sulle risorse umane perché è uno dei fattori fondamentali anche per uscire dalla crisi. Più dell'80% delle persone che si formano nei corsi della mia regione in Emilia Romagna entro un anno trovano un'occupazione a tempo indeterminato, il che vuol dire che la formazione serve. E oggi in piazza è scesa la FIOM, la funzione pubblica della CGIL, la protesta contro l'accordo separato sui contratti ma anche sulle misure anticrisi. E in questo momento sta parlando il segretario della CGIL Epifani, ci colleghiamo con la piazza dove c'è Vincenzo Miglietta. Ai nostri ascoltatori, la politica economica del governo, ma non solo, dalla riforma del modello contrattuale alle norme sullo sciopero, dall'immigrazione alla difesa della Costituzione, questi motivi che hanno portato qui in piazza San Giovanni migliaia di lavoratori metalmeccanici e del pubblico impiego aderenti alla CGIL, 700.000 secondo gli organizzatori. Tre i cortei partiti rispettivamente dalla stazione Tiburtina, Piazza della Repubblica e Piazzale dei Partigiani, una macchina organizzativa imponente secondo i promotori, 1.000 pullman, 16 treni speciali provenienti da tutta la penisola. A parlare nell'ordine Franco Podda del pubblico impiego, Gianni Rinaldini della FIOM ed infine il segretario generale Guglielmo. Vincenzo, sentiamo in diretta allora qualche parola del segretario Epifani. Nell'esito avevamo chiesto ammortizzatori sociali per tutti, perché nel nostro paese l'85% dei lavoratori non ha diritto esplicitamente a una forma di integrazione del reddito quando perde il lavoro. Avevamo chiesto di guardare con attenzione a cosa sarebbe successo a quei lavoratori in cassa integrazione che avrebbero passato mesi e mesi in quella condizione. E dicemmo, ricordo, che un conto è avere la cassa integrazione per 2 settimane in un anno, un conto è avere 6, 7, 8 mesi di cassa integrazione, perché con 650 euro forse puoi sopravvivere se ti dura una settimana, ma non puoi sopravvivere se la cassa integrazione ti dura. Questo è il segretario della CGIL Epifani. Torniamo in piazza con Vincenzo Miglietta per la cronaca della giornata. Vincenzo. Ascoltavamo le parole di Epifani, sono rivolte soprattutto al problema del salario, ne hanno parlato i vari interventi sul palco e la rivendicazione che arriva dai tanti lavoratori qui in piazza. La politica del governo è inadatta ad affrontare la crisi, si legge su molti striscioni, non si salvaguardano in particolare i redditi dei lavoratori e dei pensionati e tra qualche mese, ha detto poco fa Epifani, tra marzo ed aprile andrà anche peggio. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Questo quanto sta accadendo in piazza San Giovanni a Roma. Quella che vi raccontiamo ora è un'altra protesta nel mondo della scuola, una protesta un po' originale. Pagelle con tutti 10. È il caso della scuola elementare Longhena di Bologna, che sta facendo molto arrabbiare il ministro Gelmini, che parla di ennesimo caso di chi fa politica a scuola, vizio, dice la Gelmini, ereditato dal 68. Ora sarà un ispettore a capire com'è andata. Intanto l'ufficio scolastico ha annullato la delibera degli insegnanti che hanno deciso di mettere a punto tutti 10. E tra loro c'è anche Marzia Mascagni, e la nostra Maria Piera Ceci l'ha sentita poco fa, sentiamo che cosa ci ha raccontato. Noi siamo insegnanti tutti di lunga esperienza, che ci siamo formati negli anni in cui c'è stato proprio tutto lo studio sulla nuova valutazione, e consideriamo il voto una classificazione fredda e che non corrisponde alla valutazione. Per cui noi siamo decisamente contrari. In quanto poi siamo anche contrari a tante altre scelte della Gelmini e tante altre parti della riforma, che non è una riforma, perché quando si taglia non è mai riformare, per cui noi continuiamo a scendere in piazza. Domani, in occasione del 14 febbraio, noi dichiareremo il nostro amore per la scuola pubblica. Mi risulta che il Ministero della Pubblica Istruzione abbia mandato un ispettore. Siete pronti comunque anche insomma a subire delle sanzioni o comunque a fronteggiare quella che sarà l'iniziativa del Ministero? Noi siamo pronti, anche molto sereni, perché siamo degli insegnanti molto responsabili, che lavoriamo tanto, siamo sempre a scuola, abbiamo sempre fatto il nostro dovere. E i nostri genitori sono tutti con noi. 13 e 18 minuti, le notizie di oggi. Meno 0,9% del prodotto interno lordo nel 2008 per l'Italia. L'Istat ha diffuso oggi il dato definitivo, che è il più basso dal 93. Nel quarto trimestre dell'anno appena concluso, la frenata è stata del 2,6%. e nella notte raggiunto l'accordo tra Stato e Regioni per la divisione economica dei costi degli ammortizzatori sociali. In campo 8 miliardi, così il Premier Berlusconi. Siamo arrivati alla bella somma di 8 miliardi destinati agli ammortizzatori sociali ove ce ne fosse bisogno. Ma siamo in una crisi, siamo sempre convinti che la crisi dipenda anche molto dai nostri comportamenti, ma è una crisi globale di cui realisticamente abbiamo sempre preso atto e prendiamo atto ancora. E la CGIL oggi è scesa in piazza con gli statali e i metalmeccanici contro le misure anticrisi del governo e l'accordo separato sulla riforma dei contratti. A Piazza San Giovanni è ancora in corso il comizio conclusivo del segretario Guglielmo Epifani. Dalla Sardegna, dove si chiude la campagna elettorale regionale, parla il segretario del PD Veltroni. Il governo fa finta che non esista e non ha nessuna iniziativa di... Noi domani presenteremo il nostro piano, quello che avrebbe dovuto fare il governo lo presentiamo noi, però non c'è neanche il cuore. Vede, la cosa che mi impressiona è che il Presidente del Consiglio viene qui, racconta barzellette, descrive un mondo che non c'è, perché il mondo di questo Paese purtroppo è un mondo di sofferenza, di preoccupazione, di inquietudine, che è molto diffusa ormai in tutto il territorio nazionale. In Italia per fortuna abbiamo una Costituzione, teniamocela stretta. Parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, questa mattina è tornato a difendere la Carta Costituzionale. Truffa e tangenti alla ASL di Napoli. 9 gli arresti scattati questa mattina da parte della Guardia di Finanza. I destinatari, imprenditori e dirigenti dell'ASL. Negli Stati Uniti un aereo di linea della Continental Airlines si è schiantato su una casa vicino all'aeroporto di Buffalo, nello stato di New York. Tutti morti, le persone a bordo e una persona a terra. Tra le vittime anche una vedova dell'11 settembre. Più volte annunciato e poi rinviato, è ora ufficiale l'accordo per una tregua nei territori palestinesi. Hamas ha infatti accettato il piano egiziano. Niente attacchi per 18 mesi, in cambio l'apertura di 6 valichi. Un bimbo di un anno è morto a Roma, aggredito all'improvviso dal cane di famiglia, un mastino, mentre si trovava nel giardino di casa. La nonna, ferita dall'animale nel tentativo di salvare il nipote, è ora in ospedale. E come detto, andiamo all'estero, perché in America ancora un grave incidente aereo. Non ci sono sopravvissuti fra i passeggeri a bordo dell'aereo della Continental Connection precipitato negli Stati Uniti. La conferma è arrivata dalle autorità americane. L'aereo, decollato a Newark, nel New Jersey, era diretto a Buffalo, poca distanza dalle cascate del Niagara. Poco prima dell'atterraggio qualcosa è successo. Erano le 22:10 ora locale, le 4:10 di stamattina in Italia, e l'aereo è precipitato su una casa di Clarence, un sobborgo a circa 16 km dall'aeroporto di Buffalo. Abbiamo sentito uno schianto, abbiamo aperto la porta di casa, ovunque c'era molto fumo, ha raccontato alla CNN una testimone che vive a pochi chilometri di distanza. Tutte le 48 persone a bordo del volo 3407 sono morte, 44 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Anche una persona che si trovava nella casa sulla quale è caduto il velivolo è morta, mentre incredibilmente una donna e un bambino piccolo che erano nell'abitazione si sono salvati. Sulle cause dell'incidente non ci sono ancora certezze. Non risulta che il pilota avesse segnalato particolari problemi alla torre di controllo. Sul luogo dell'incidente si è sviluppato subito un vasto incendio che i vigili del fuoco hanno fatto fatica a domare. A bordo dell'aereo c'era anche una vedova dell'11 settembre al World Trade Center, Beverly Eckert, che aveva perso il marito nel crollo delle torri. Era diretta a Buffalo per una cerimonia in onore del marito. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E in Afghanistan 5 bambini sono rimasti uccisi nel corso di una sparatoria tra talebani e soldati australiani. Solo 2 giorni fa gli attentati sincronizzati nel cuore della capitale Kabul. Nel frattempo il governo italiano ha detto che valuterà se aumentare le truppe in Afghanistan, come chiesto dall'America agli alleati. Il ministro Frattini ha anticipato che il contingente potrebbe arrivare fino a 2.800 unità. Attualmente ve ne sono 2.300 circa in Afghanistan. Ma qual è la situazione a Kabul? Cristina Balotelli ha sentito il colonnello Lucio Gatti, comandante dei militari italiani nella capitale afghana. Gatti commenta la recente ripresa degli attentati come quelli sincronizzati di 2 giorni fa e anche lo stato della sicurezza nell'area dove operano i nostri militari. È stato un po' una novità rispetto al passato, perché fino adesso anzi si assisteva a una riduzione comparato all'anno precedente nello stesso periodo per quello che riguarda gli attacchi nella capitale. Ma bisogna anche tener conto che comunque le forze di sicurezza afghane hanno reagito prontamente e sono sicuramente riuscite a limitare i danni che, se comparati a quelli che si sono avuti in altre occasioni, in altre località, indubbiamente sono stati molto, molto minori e molto ridotti. Sì, c'è stato un buon intervento delle forze di sicurezza che comunque hanno eliminato alcuni kamikaze. Affermativo, ed è stato un chiaro esempio di come comunque siano in grado di sostenere la situazione della sicurezza e prenderla appunto in mano per il verso giusto. Il ministro Frattini ha detto che l'Italia può aumentare di alcune unità il contingente già dispiegato in Afghanistan ed essere più flessibile nell'utilizzo delle truppe. Che cosa vuol dire rendere le truppe più flessibili? Con gli impegni che siamo presi con le procedure che utilizziamo possiamo essere impiegati in ogni situazione. Sinceramente non ho idea di cosa intenda dire per essere più flessibili, in quanto non abbiamo avuto fino adesso problemi di sorta ad essere pronti in ogni situazione. Ecco, quindi vi sentite pronti per ogni evenienza? Assolutamente sì. Passi avanti arrivano intanto su un altro fronte, nelle trattative in corso al Cairo tra mediatori egiziani, israeliani e palestinesi. Il movimento integralista Hamas ha fatto sapere di aver accettato il piano egiziano per una tregua con Israele che durerà 18 mesi. 1000 detenuti palestinesi, tra cui 230 assassini di israeliani, in cambio della liberazione di Shalit, il soldato israeliano rapito da miliziani palestinesi nel giugno 2006. Sarebbe questa l'intesa indiretta raggiunta tra Hamas e Israele grazie alla mediazione egiziana. Lo rivela il quotidiano Al-Hayat, che riporta i termini delle intese raggiunte in Cairo. Annuncio della tregua nella giornata di oggi, liberazione del soldato israeliano e apertura provvisoria del valico di Rafah, in attesa di un governo di unità nazionale palestinesi, entro 2 giorni. Secondo le fonti del giornale, l'accordo raggiunto con il beneplacito dell'Unione Europea prevede la nomina di un generale di fiducia di Abu Mazen per il controllo del valico e il ritorno, affiancati dai turchi, degli osservatori europei. Adif Atahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora una notizia scioccante che arriva da Roma, dove un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato aggredito dal suo cane, un mastino napoletano. L'episodio è avvenuto nel giardino di casa a Genzano, nei Castelli Romani. Il bimbo, secondo quanto si è appreso, è stato improvvisamente aggredito dal cane e anche la nonna, che era intervenuta per cercare di salvarlo, è rimasta ferita ed ora è ricoverata all'ospedale. Intanto sono in corso accertamenti da parte della polizia per cercare di ricostruire la dinamica di questo incidente mortale. Dalle agenzie un flash, un'ultima ora, leggiamo così come è arrivato. L'indagine su Di Pietro, ricorderete, per le parole sul presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione. Il Parlamento ha appena iniziato l'esame della legge sul testamento biologico, ma la vicenda di Eluana Englara sta provocando altri effetti concreti. Sono in crescita, per esempio, le richieste di persone che ora sono sanissime, che però desiderano in futuro non essere sottoposte a inutili, secondo loro, e dolorosi trattamenti sanitari in caso di perdita della capacità mentale. E Paolo Panceri ha intervistato l'avvocato fiorentino Sibilla Santoni, che ha già presentato 2 ricorsi al giudice tutelare di Firenze. Sono quelli di un 57enne e di un medico di 36 anni. Entrambi in perfetta salute, chiedono però di poter nominare un amministratore di sostegno. Sentiamo. Nel 2004 è stata prevista la figura dell'amministratore di sostegno, che è un soggetto che interviene a tutela di una persona che per motivi fisici o psichici non riesce a provvedere ai propri interessi. Ho depositato 2 ricorsi ho un terzo ricorso firmato. Tenete presente che alcune volte le persone si rivolgono a me con dubbi, altre volte magari sono entusiasti ma non hanno pensato a chi vogliono designare come amministratore di sostegno, perché è lo stesso interessato che sceglie normalmente un parente oppure un amico, un convivente per svolgere la funzione di amministratore di sostegno. La nomina dell'amministratore di sostegno ha in sostanza lo scopo di evitare un nuovo caso Englaro? Dovrebbe evitare che la persona sia tenuta in vita artificialmente contro la volontà della persona stessa. Ora, ovviamente, una volontà che è stata espressa dalla persona in via anticipata e del tutto eventuale e che poi dovrà portare avanti l'amministratore di sostegno incaricato. Ma Eluana non era collegata ad apparecchi che la facessero vivere, in sostanza aveva solo questo sondino nasogastrico che l'alimentava. Noi abbiamo previsto, per esempio, che uno dei trattamenti a cui l'amministratore di sostegno si dovrà opporre è proprio quella dell'alimentazione artificiale. Disegno di legge che peraltro non prevede l'alimentazione forzata come uno dei motivi validi per chiedere la sospensione e quindi per ricadere nel caso di Eluana. Sì, bisogna vedere se la legge è costituzionale. È ipotizzabile anche un eventuale ricorso per incostituzionalità della futura eventuale legge? Certo, sì sì. In sostanza quindi la vostra è una sorta di azione preventiva? Del tutto preventiva, perché i miei clienti, almeno quelli che ho avuto fino ad oggi, sono tutti perfettamente sani. E su questo argomento anche la satira dei giornali, in questo caso Staino sui rovelli all'interno del Partito Democratico tra cattolici e laici, e che ha portato anche al sacrificio, sapete, dell'onorevole Ignazio Marino alla commissione, al vertice della Commissione Sanità. Il dialogo è questo: Dorina Bianchi al posto di Ignazio Marino, addio testamento biologico. E Bobo risponde: no no, facciamo solo credere ai vescovi di essere al loro servizio, ma la linea non cambia, risponde un po' perplesso. 13:36 minuti, notizie di oggi, extra large. Meno 0,9% il prodotto interno lordo nel 2008 per l'Italia. L'Istat ha diffuso oggi il dato definitivo, che è il più basso dal 93. Nel quarto trimestre dell'anno appena concluso il calo è stato del 2,6%, il peggiore da quando viene calcolato. Siamo preoccupati, dice Berlusconi. Questa crisi ha delle dimensioni che non sono ancora del tutto definite, ma a cui dobbiamo guardare e guardiamo con preoccupazione. E nella notte è raggiunto l'accordo tra Stato e Regioni per la divisione economica dei costi degli ammortizzatori sociali. In campo 8 miliardi. Il presidente della conferenza Stato-Regioni, Vasco Errani. Per gli ammortizzatori sociali occorreva una garanzia reale del governo per la piena copertura. C'è un passo in avanti concreto a favore dei lavoratori senza protezioni. Credo che sia un merito che prima di tutto le regioni. La CGIL oggi è scesa in piazza con gli statali e i metalmeccanici contro le misure anticrisi del governo e l'accordo separato sulla riforma dei contratti. Siamo 700.000, dicono gli organizzatori. Comizio conclusivo ancora in corso del segretario Epifani, sentiamo. In tutta Europa e anche in tutto il mondo i governi fanno politiche molto forti attraverso la riduzione del fisco, gli incentivi alle imprese, il sostegno ai redditi dei lavoratori e dei pensionati, una politica industriale, spese per infrastrutture, per la formazione. Il nostro governo no. Allora, possibile che sbagliano tutti? La crisi non risparmia il primo vettore aereo mondiale. Air France pronta a tagliare 1200 posti di lavoro. Oggi l'ENI presenta intanto i suoi conti. Continuano a crescere anche con la crisi, dice Scaroni. Truffa e tangenti all'ASL di Napoli. 9 gli arresti scattati questa mattina da parte della Guardia di Finanza, i destinatari, imprenditori e dirigenti dell'ASL. Negli Stati Uniti un aereo di linea della Continental si è schiantato su una casa vicino all'aeroporto di Buffalo. Tutti morte le persone a bordo e una persona a terra. Tra le vittime una vedova dell'11 settembre. Un bimbo di un anno è morto a Roma, aggredito all'improvviso dal cane di famiglia, un mastino, mentre si trovava nel giardino di casa. La nonna, ferita dall'animale nel tentativo di salvare il nipote, è in ospedale. Il calcio dice addio a Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna. L'ex calciatore rossoblu è morto a 68 anni dopo una lunga malattia. Veniamo ai dati economici di giornata, che sono davvero pesanti. Abbiamo parlato del PIL, produzione industriale in caduta libera con un calo dal picco di dicembre 2006 pari al 17,2%. Si tratta della flessione più forte dal dopoguerra. E quanto afferma il Centro Studi di Confindustria nella sua congiuntura flash. In Italia la produzione industriale a gennaio ha registrato un altro calo dello 0,5% sulla base sempre del delle stime del Centro Studi, e questo rispetto al mese scorso. E questi sono dati diffusi proprio un istante fa, ma l'area della crisi non risparmia davvero nessuno, investe anche Air France KLM, la prima compagnia al mondo per fatturato, terza per numero dei passeggeri. Ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio 2008-2009 con una perdita netta di 505 milioni e un fatturato rimasto stabile a 5,9 miliardi. Per questo il gruppo franco-olandese ha annunciato un taglio da 1.000-1.200 posti di lavoro, anziché se si tratterà soprattutto di non sostituzione di pensionamenti e blocco delle assunzioni. Il 2008 è stato un anno eccellente per l'ENI in termini economici e operativi e guardando al futuro ENI farà fronte alla recessione internazionale continuando a crescere. Parole dell'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni a commento dei dati 2008, i dati che ci illustra Massimiliano Zampini di Radio Col. Buongiorno. Buongiorno Alessio, e allora la prima cosa da dire è che il mercato, come sentivamo pochi minuti fa, ha reagito molto bene ai dati dell'ENI. ENI sta guadagnando circa il 2% in borsa e appunto il mercato saluta un 2008 che si è chiuso per il cane a sei zampe con un utile netto in crescita del 7,7% a 10,2 miliardi, anche se a questo proposito c'è una piccola ombra, perché il quarto trimestre evidentemente la crisi ha morso anche un pochino ENI e di fatti i profitti sono calati del 27,4%. Tuttavia la società ha vissuto un anno brillante soprattutto dal punto di vista della produzione di idrocarburi, che è cresciuta del 3,5%, toccando un livello record di quasi 1,8 milioni di barili al giorno, e questo livello record è destinato a continuare anche per i prossimi anni, visto che nel piano strategico che in questo momento l'amministratore delegato sta presentando a Londra si stima che nel 2012 arriveranno a oltre 2 milioni di barili al giorno, con una crescita media annua che sarà simile a quella registrata quest'anno. E poi è stata una giornata importante per ENI tra ieri e oggi, in realtà anche per una serie di operazioni finanziarie. Ieri con la cessione, con l'annuncio della cessione a Stogit e Italgas, di Stogit e Italgas a Snam Rete Gas, operazione che porterà nelle casse dell'ENI quasi 5 miliardi di euro. E anche per un'altra operazione decisa dall'ENI che decide di tornare sul mercato, e oggi il CDA ha deliberato l'emissione di uno più bond fino a 1,5 miliardi, quindi per reperire risorse per finanziare investimenti ed altre operazioni. A proposito, e concludevo della soddisfazione che dà al mercato ENI, c'è da parlare del dividendo che rimane stabile rispetto all'anno scorso a 1,30 euro, un primo acconto c'è stato lo scorso autunno, adesso ci sarà il saldo di altri 65 centesimi di euro per azione e questo arriverà nelle casse e nelle tasche degli azionisti il prossimo 21 maggio. E grazie a Massimiliano Zampini. Andiamo invece ora da Stefano Totoro che ci aspetta a Novara, ve l'avevamo anticipato, dove il Partito Democratico prova ad affrontare la questione Nord. Stefano. Sta tenendo l'assemblea dei parlamentari assessori e consiglieri regionali delle regioni del Nord, una riunione finalizzata alla costituzione del coordinamento del Partito Democratico nelle regioni settentrionali. Non ci sono questa mattina esponenti nazionali del partito, non ci sono ministri ombra, ci sono gli amministratori locali che hanno discusso soprattutto del federalismo fiscale. Accanto a me il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, a cui chiedo soprattutto in che direzione e perché c'è bisogno di un coordinamento del Partito Democratico al Nord. Beh, c'è bisogno di un coordinamento del Partito Democratico del Nord, perché intanto al Nord il Partito Democratico ha una classe dirigente che governa molte città, regioni, province, che tutti i giorni si misura con le domande della gente e delle imprese, specie in questo momento di crisi, e quindi bisogna che le politiche del Partito Democratico italiano stiano di più a sentire quello che questa classe dirigente ha da dire e quello che ha da dire l'esperienza che noi facciamo quotidianamente. Signor Sindaco, un'altra questione: questa mattina si è parlato molto di federalismo fiscale, a più voci vi siete dichiarati insoddisfatti di come si sta muovendo la maggioranza di centrodestra. Quali sono le richieste che il Partito Democratico fa in direzione del federalismo fiscale? Ma noi pensiamo che il federalismo fiscale sia una riforma diciamo fondativa di una modernizzazione dell'impianto statale e amministrativo italiano. Per far questo però ha bisogno, da un lato, cioè, ha bisogno di essere accompagnato almeno da tre processi paralleli. Uno, bisogna che si avvii il processo di riforma costituzionale che superi il bicameralismo e che costruisca il Senato delle Regioni, perché se no noi con una mano facciamo il federalismo fiscale, poi domani un qualsiasi governo, anche al limite di sinistra, può decidere con una legge ordinaria che cambia tutto, e questo non va bene, ci vuole una tutela che può essere solo un organo, una delle due Camere. Due, c'è bisogno di sapere esattamente come stanno i conti, perché io lo dico sempre, ma i comuni, se va avanti di questo passo, quando ci sarà il federalismo fiscale saranno morti tutti, e noi abbiamo bisogno di un provvedimento stralcio che ci dia delle certezze di autonomia finanziaria a cominciare dal 2010, non dal 2014. E poi io credo ci sia anche un problema che riguarda la cosiddetta carta delle autonomie, cioè bisogna capire meglio quali sono le funzioni dei comuni, delle province, delle regioni, soprattutto io in questo caso parlo delle funzioni dei comuni, che saranno oggetto del finanziamento. Per ora c'è un elenco, non si capisce esattamente quali siano, ma anche perché non possono stare nella legge sul federalismo, ma devono stare in un'altra legge che è quella sulla carta delle autonomie. Su questo noi siamo pronti a sfidare il governo, a fare un accordo che comprenda queste questioni e quindi a valutare con un atteggiamento, diciamo, propositivo, come abbiamo avuto al Senato, la legge nel suo iter alla Camera. E grazie al nostro Stefano Totolo, grazie anche al sindaco di Torino Sergio Chiamparino. Non vi manderemo in onda invece l'intervista che vi abbiamo annunciato nel corso della settimana al presidente della regione Sardegna Renato Soru. In Sardegna si sta chiudendo la campagna elettorale per le amministrative, abbiamo mandato in onda l'intervista al suo avversario Cappellacci, ma Renato Soru non ha voluto rilasciarci dichiarazioni. E adesso andiamo a prendere un po' d'aria fresca in Val d'Isère. Dario Ricci, buongiorno. Eh sì, buongiorno Alessio, hai detto bene, perché qua ci siamo svegliati a meno 17 e adesso la temperatura è a meno 7. Dario, ti avevamo lasciato una prima manche con un italiano al terzo posto. Eh sì, adesso... te lo confermo, perché siamo nel pieno della seconda manche, sono scendere ancora i migliori, ma in testa c'è lo svizzero Janka con 48 centesimi su Benjamin Reich, il terzo Massimiliano Blardone a 96 centesimi, e poi abbiamo ancora in sesta posizione Manfred Mölg, in quattordicesima Davide Simoncelli, undicesimo addirittura l'ottimo Alex Ploner. Come squadra diciamo che siamo la migliore, però vorremmo proprio portarci a casa una medaglia individuale. Da sottolineare anche dal punto di vista tecnico, Alessio, che questa seconda manche è tracciata proprio dall'allenatore degli azzurri Guadagnini, quindi un tracciato più stretto, più ritmato, che dovrebbe ben adattarsi alle caratteristiche soprattutto di Blardone. 13:48 minuti, le notizie di oggi. L'Italia ha chiuso il 2008 con un PIL in calo dello 0,9%, il più basso dal 93 nel quarto trimestre dell'anno. La frenata è stata del 2,6%, la peggiore da quando viene calcolato il dato. E nella notte è raggiunto l'accordo tra Stato e Regioni per la divisione economica dei costi degli ammortizzatori sociali, in campo 8 miliardi di euro, mentre la CGIL oggi è scesa in piazza con gli statali e i metalmeccanici contro le misure anticrisi del governo e l'accordo separato sulla riforma dei contratti. Truffa e tangenti alla ASL di Napoli, 9 gli arresti scattati questa mattina da parte della Guardia di Finanza, i destinatari, imprenditori e dirigenti della ASL. Solo due giorni fa l'allarme della Corte dei Conti sulla corruzione. Il calcio dice addio a Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna. L'ex calciatore rossoblù è morto a 68 anni dopo una lunga malattia. Bulgarelli, campione europeo con gli azzurri nel 1968, ma soprattutto bandiera del calcio italiano e del calcio bolognese. È morto ieri sera a 68 anni dopo una lunga malattia. Vogliamo ricordarlo con Gigi Garanzini. Era il meno abatino di quella covata di talenti anni 60 a cui Gianni Brera appiccicò la sua immortale etichetta. Un regista di stampo classico, un solo colore sulla pelle, anzi bicolore visto che la maglia del Bologna è rosso-blu, come usava quel tempo di giocatori bandiera, da non confondere, please, con le bandieruole d'oggidì. Giacomo Bulgarelli ha giocato nel suo Bologna 486 partite, guidandolo lo scudetto storico del 64 dopo lo spareggio con l'Inter, l'unico nella storia del nostro calcio. 27 presenze in nazionale, poche per il suo talento, compresa quella in noi in cui un ginocchio già malandato cedette, e a quel tempo, il 1966, le sostituzioni non erano ancora previste. il giorno della Corea, che costò caro a lui, uscito incolpevolmente in barella dopo mezz'ora, e carissimo all'Italia. Fu tra i fondatori dell'Associazione Italiana Calciatori e poi brillante, arguto commentatore a Tele Monte Carlo e sulla RAI. Addio Giacomino. E non ci siamo dimenticati della nostra Giulia Crivelli, andiamo sul giornali stranieri. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora, siamo al venerdì e sarà questo il fine settimana di San Valentino, non ce ne siamo dimenticati. Al di là dei romanticismi però, Sì. Da una parte c'è una notizia sull'Esecco che è un po' così, è un po' in chiaroscuro, nel senso che riguarda un'analisi economica delle vendite di bijoux, è una parola per l'appunto francese ma che usiamo anche noi, quindi di bigiotteria e di orologeria e di gioielleria. Nel 2008 sono calate del 2%, è magari un calo inferiore a quello di altri settori, però è comunque insomma un ulteriore segno della crisi, soprattutto calcolando che l'anno precedente erano cresciute del 5%. Quindi tutto starà a vedere come sarà il 2009, se comunque per gioielli piccoli o grandi, importanti o non importanti, continueremo a spendere proprio magari per San Valentino. Ed è proprio l'occasione per questo di fare un po' il punto. E poi parliamo invece di una donna che si è guadagnata una prima pagina illustre, ma non solo. Sì, è il mio nuovo idolo, Michelle Obama, ha la prima pagina di Le Figaro, il titolo è: in un mese Michelle Obama ha imposto il suo stile. Lo spunto ulteriore per parlare di questa splendida First Lady è che è sulla copertina di Vogue di marzo in America, e naturalmente in Vogue in francese vuol dire anche, ma anche gli inglesi, gli americani lo usano per dire di moda, quindi il titolo naturalmente è First Lady and Vogue, quindi in voga. C'è la copertina tutta pagina, una bellissima Michelle fotografata da Annie Leibovitz, e poi c'è un excursus un po' su tutte le possibilità di cambiare la Casa Bianca che questa donna ha insieme naturalmente al marito. Grazie Giulia Crivelli per oggi. A voi. A lunedì. E intanto c'è una notizia dell'ultima ora, ve la ridiamo subito. Nevica ancora oggi in molte regioni del sud. Poco fa la notizia: il sindaco dell'Aquila ha disposto la chiusura delle scuole per domani in base alle previsioni meteorologiche, dalle quali emerge che vi saranno ulteriori nevicate, minime anche di meno di 7 gradi, con conseguenti rischi. Scuole chiuse dunque domani all'Aquila. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Extra Large come sempre torna lunedì a partire dalle 13. Io vi ricordo intanto il nostro indirizzo mail se volete scriverci: extralarge@radio24.it. Buon fine settimana. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.